Come si trova Tione? Sono quasi 20 anni. E come si trova? Ci si abitua. Un po' freddo. Ah. E cosa ne pensa dei giovani? Che dovrebbero uscire di più. Uscire? Sì, anche per cercare lavoro. Ah, ok. E secondo lei, i giovani, cosa pensano degli adulti? Non saprei, io ho pochi contatti. Non saprei proprio.